Mi vedi normale tu? Normalissima, perché Meno mi male. sto perdendo qualcosa? Ti No. tremano un po' le gambe, le Mi mani? tremano un Devo po' aver le paura. gambe. Libero di nome di Libero? fatto? Sì. No, libero di nome, di fatto sono coniugato. Claudio, vada, veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. È finita, di nuovo, qualcuno dice per sempre. Nuovo addio a distanza di pochi mesi dalla ritrovata unione per Federica Pellegrini e Filippo Magnini, i due campioni Si del fanno nuoto tante azzurro che erano chiacchiere tornati sulle insieme ad coppie, agosto Debra, e poi però sono oggi io sciolti ti il loro voglio parlare di fatto. Sì, una l'indicazione coppia ufficiale poco sono chiacchierata. sentiamo. Ti do qualche indizio, anzi, penso di fartelo dare dal professor Giorgio Battaglia, che è in linea con noi ed è primario di nefrologia all'ospedale Santa Marta, Santa Venera di Acireale. Professore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta in particolare. Sono due, sono dentro il nostro corpo. Sono Romeo e Giulietta che si guardano dal balcone e guardano tutte le nostre interno. Pesano 150 grammi, sono 3-4 centimetri di spessore, lunghi 10 centimetri e fanno un sacco di cose belle per renderci il sole dentro. Ho indovinato, avevo le cuffie proprio come in un quiz, sono diventata bravissima, sono i Reni, professor Battaglia, una coppia Certo, unita nella buona e nella cattiva perfetto. sorte, un po' come Menico Detta. È vero, i Reni lavorano sodo, si aiutano reciprocamente, non si lamentano mai o quando lo fanno è perché hanno motivi seri per farlo. 800 24 00 24, se avete a cuore la salute di questa coppia o se qualche cosa della loro salute vi preoccupa. Una coppia da prendere ad esempio, uno aiuta l'altro, un po' come succede o come dovrebbe succedere nella teoria, nella vita e nel lavoro, per fare e per imparare. Avvocato Falasca, giuslavorista, esperto per il Sole 24 Ore di tematiche del lavoro, ci sono delle forme contrattuali nel mondo del lavoro che nascono proprio con l'intento di creare delle coppie di fatto nei luoghi di lavoro. Penso ad esempio all'apprendistato o al tirocinio, è così? Esatto, è così. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Nell'apprendistato c'è una persona più esperta che insegna un mestiere e una più giovane che lo impara. Diciamo che è un contratto in cui si lavora apprendendo e si apprende lavorando. Quindi è sicuramente le coppie sono tante in questo contratto. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Coppie si nasce come i nostri Reni, ma coppie si diventa come accade sul lavoro. Descriveteci allora con un messaggio il vostro collega o in ogni caso la persona con cui fate coppia sul lavoro. Anche solo alla macchinetta del caffè o alla pausa mensa. La complicità di coppia è l'immagine che vogliamo farvi ricercare oggi, invitandovi a scattare una foto che vi ritrae insieme al vostro compagno di cuore o di denari. Vale tutto, un affetto, un amico a quattro zampe, un capo, un collega di lavoro o un compagno di palestra. Condividete le vostre foto sul profilo Facebook di Cuore Denari trattino Radio 24, su Twitter l'account è chiocciola Cuore Denari, oppure mandateci queste foto via mail cuoredenari@radio24.it. Agli autori delle sei foto più belle scelte insindacabilmente dalla nostra giuria, che siamo Debora, io, Marco Lombardo e Laura Vanossi, sei biglietti per la mostra di Andy Warhol. Allora, io e te, Nico, ci andiamo in coppia alla mostra, ci e facciamo ci la foto, direi perché di no? sì. Poi la mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori, ma ora direi che è ora di partire. Essere e benessere. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. Wanted my cake and eat it too. Debra, va di moda fare il duetto, eh? Eh sì. Sai, Steven Tyler, Lady Gaga con Miley, Giorgia con Alicia Keys. Insomma, due meglio di uno. La storia, in questo caso la musica, insegna: in coppia si vince, o per essere più precisi qua a Cuore Denari, in coppia si lavora meglio. L'importante, naturalmente, e trovare il partner giusto, sia gentile, simpatico, intelligente, collaborativo, anche bello. Esatto, che non guasta e poi che magari sia anche capace di insegnarti qualcosa, come da qualche settimana sta accadendo reciprocamente tra me e Nicoletta. Questo è essenziale, soprattutto sul lavoro. È vero, avvocato Falasca, il contratto di apprendistato ha proprio nel suo stesso nome il concetto dell'insegnare e dell'imparare qualcosa, ma viene usato dalle aziende. Ci ricorda come funziona? Ma sì, diciamo che è un contratto di cui tantissimo negli ultimi anni. Pensate che abbiamo scomodato anche Fiorello per lanciare questo contratto. È vero, il Ministero del Welfare ha fatto una campagna proprio utilizzando questo testimonial molto conosciuto. Esatto, diciamo che è un contratto che è usato molto da quelle aziende che l'hanno provato. C'è ancora molto diffidenza su questo. Poi chi lo prova non riesce più a farne a meno. Il funzionamento è molto semplice, cioè si fa un contratto normale di lavoro, ma accanto a quel contratto c'è un piano di formazione. Questo piano prevede che l'azienda insegni una serie di nozioni al dipendente e, diciamo, in cambio di questa attività di insegnamento l'azienda ottiene la possibilità di pagarlo all'inizio un po' di meno e di inquadrarlo uno o due livelli rispetto a quelli a cui avrebbe diritto. Ci sono poi importantissimi sgravi contributivi, cioè costa di meno, e alla fine del percorso, che dura diciamo fino a un massimo di 3 anni, il dipendente ottiene una qualifica, sale al livello finale e poi può essere confermato dall'azienda o può uscire dal rapporto. Quindi mette insieme la flessibilità, l'insegnamento del mestiere, un sacco di potenzialità. Certo, ovviamente sì. No, in Germania è l'unico contratto con cui i giovani entrano nel mercato del lavoro. In Italia dovrebbe esserlo, ma qualche volta c'è un pochino un abuso anche di questo strumento. Chiaramente le aziende anche in queste fasi di difficoltà ne fanno utilizzo, perché utilizzano ovviamente la leva dello sgravo fiscale, dello sgravo contributivo, però qualche volta non riescono poi a tenere questi ragazzi una volta che hanno insegnato loro il mestiere. Poi ci ritorneremo su questi temi, sì. Avvocato Falasca, adesso dobbiamo recuperare la telefonata con lei perché qualitativamente non era ottimale, e quindi ci risentiamo fra qualche istante. Intanto dalla regia richiamano il nostro avvocato Falasca. Ma professor Battaglia, abbiamo parlato di apprendistato. I reni, la coppia di cui parliamo oggi, non hanno bisogno di apprendistato perché sanno già quello che devono fare, e per fortuna, perché hanno talmente tanti compiti che se dovessero impararli tutti non basterebbe una vita. Infatti non si limitano solo a filtrare, non sono quindi solo organi di filtro. Noi pensiamo ai reni e pensiamo qual è la funzione dei reni, quella di produrre urina. Beh, non si limitano a fare questo, professor Battaglia. No, infatti l'urina è solo il prodotto finale del loro lavoro, che inizia nella preistoria, quando i nostri reni sono dentro la pancia dei nostri figli. E i reni non fanno solo l'urina, i reni ci hanno reso nelle generazioni la possibilità di uscire dall'acqua e di vivere sulla terra. Noi siamo l'80% composti di acqua, quindi dovremmo annegare nell'acqua. La loro rapporto di convenzione che hanno col nostro corpo ci dà la possibilità di stare con i piedi per terra. Certo. Non ci rende anemici, cioè dovremmo essere tutti pallidi, tutti che non potremmo alzarci dalla sedia perché non avremmo la forza di alzarci. Loro producono un ormone che fa maturare i nostri globuli rossi, che sono la componente principale del nostro sangue. Non ci sciogliamo come neve al sole le nostre ossa, perché loro sono produttori e convertitori della vitamina D, che dà la possibilità alle nostre ossa di diventare duri, di renderci la possibilità di stare nella posizione eretta. E poi è vero che aiutano anche a controllare la pressione arteriosa, questi due, certo, fagiolini? Questi fagiolini si guardano dal balcone. Il balcone è proprio dove ci sta l'organo, come Adamo ed Eva che si guardano, dove ci sta l'organo che presiede alla pressione arteriosa. Noi quando abbiamo bisogno di fare qualcosa, abbiamo bisogno di alzare leggermente la nostra pressione, e loro sono i lettori di questo nostro fare qualcosa. L'abbiamo bisogno per un'attività, per fare gli esami a scuola, per fare gli esami per la patente, e quindi mandano più sangue, più pressione arteriosa sul nostro cervello. O hanno bisogno di fare una corsa, di fare jogging. Sì. Loro selezionano il nostro sangue, la nostra pressione, che e fa voilà. Fantastico, questo è Giulietta sono Romeo. Bravissimi. Sono bravissimi. Si amano. Cioè, è giusto naturalmente, con amore poi portano avanti anche l'impegno di sostenere tutto un corpo. Allora, 800 24 00 24 per parlare della salute dei vostri reni, perché sono appunto due organi che lavorano in coppia, ma per parlare anche di coppie che lavorano insieme. Abbiamo parlato prima dell'Istituto dell'Apprendistato, non abbiamo ancora raccontato tutto, ma c'è già pronto Vittorio da Genova con una testimonianza nel settore lavorativo. Vittorio, buongiorno, lei ha una società con sua moglie? No, no, io ho assistito nella mia carriera lavorativa abbastanza lunga, avendo più di 50 anni, quasi, a diversi fallimenti quando le coppie affettive diventano delle SRL, come dico io, ovvero cioè quando le coppie che hanno un rapporto d'amore così bello iniziano un'attività lavorativa insieme e inevitabilmente quello che è il rapporto di coppia bello che avevano diventa, cioè, si incentra completamente sul lavoro e crea purtroppo una frattura insanabile, ovvero cioè l'amore viene perduto e rimane tutto il lavoro, quello che poi rimane quello che poi di brutto è, perché poi alla fine ci si comporta in modi anche rudi, no? Vittorio, c'è un messaggio che voglio leggerla, di Gabri da Bergamo, che dice: neanche se mi pagassero oro andrei a lavorare con mio marito, che ansia, che angoscia, basta ne avanzano le sopportazioni a casa. Ma Vittorio, questo lei non l'ha aggiunto, ma lo aggiunge Gabri: lo amo comunque, non lo cambierei. 20 anni di matrimonio, due figli, uno in arrivo. E poi ci fai complimenti. E quindi certo. Allora magari chiediamo all'avvocato Gian Piero Falasca se gli capita nella sua esperienza quotidiana di assistere anche allo scioglimento di società a conduzione familiare, perché chiaramente la coppia scoppia all'interno. Ma guardi, questo non mi è mai capitato, però sicuramente mi sembra molto verosimile che accada. Credo che sia un gesto di eroismo avviare un'impresa con un congiunto. Diciamo che però in tempi moderni magari avvocato, è inevitabile. Avvocato, cosa mi dice? Un gesto di eroismo, su. Lei ride, ma non me l'aspettavo da lei una cosa. Allora torniamo a un terreno che è più familiare all'avvocato appunto Falasca, che è quello dell'apprendistato, perché Nicoletta è mamma di due ragazze che hanno appena terminato il loro ciclo di studi, e magari Nicoletta potrebbe esserci questa prospettiva per loro. Certo, io vorrei chiedere proprio all'avvocato che cosa potrei sperare. Il contratto di apprendistato è un buon contratto o c'è il rischio che dopo il periodo di apprendistato ti lascino a casa? Chissà quanti nostri ascoltatori è successo, o figli dei nostri ascoltatori magari, perché li invitiamo a chiamarci all'800 24 00 24, magari c'è anche un ragazzo che è stato lasciato a casa dopo l'apprendistato. Avvocato, lei che cosa ci dice? Ma guardi, faccio una premessa brevissima. Nessun contratto ormai garantisce il posto di lavoro. Il posto di lavoro lo garantisce la competenza, la professionalità e la voglia di fare, perché ormai nell'economia moderna, diciamo, non esistono strumenti giuridici che ci legano sul posto di lavoro. Ce la dobbiamo fare con le nostre forze. Detto questo, diciamo, l'apprendistato non è un buon contratto, è un ottimo contratto, perché oggi purtroppo i giovani si vedono proporre false partite IVA, collaborazione a progetto, così così, lavori intermittenti, accessori e quant'altro, e pochi purtroppo giovani si vedono proporre un contratto solido e ben fatto come quello di apprendistato, che è un normale contratto, come dicevamo prima, a cui si aggiunge l'insegnamento. Quindi sarebbe un successone poter iniziare con quel contratto. Ecco, ma appunto Nicoletta sollevava il problema di cosa succede al termine del contratto di apprendistato. L'azienda cosa può fare? Ha facoltà di lasciare a casa la persona o deve tenerla? Allora, l'azienda ha questa facoltà, ma diciamo che un'azienda scriteriata lascerebbe a casa una persona che sulla quale ha investito risorse e tempo. La realtà di oggi ci dice un fatto, che in realtà i posti di lavoro saltano per motivi economici, non giuridici. Quindi la possibilità c'è, ma dipende, penso, dal lavoratore, e dipende dalle condizioni dell'azienda, certo, non dalle regole e dalle condizioni appunto circostanti che sono sempre più difficili. Nicoletta. Abbiamo Luigi che ci chiama dalla provincia di Milano, 800 24 0024. Luigi, benvenuto. Grazie per l'opportunità che ci date. Allora, io e mia moglie facciamo coppia da quasi 50 anni. Sì. Purtroppo però i suoi reni non fanno coppia. Ecco. E a seguito di coliche siamo accorti che uno non funziona e ha dovuto subire un intervento di stenosi aggiunto. Sì. E dopo tutto ha funzionato bene. Adesso da un po' di tempo succede che ogni 3-4 mesi è in ballo con un'infezione tipo cistite, urinocultura, e gli danno l'antibiotico Certo. E dopodiché però siamo mi piace lì, Luigi perché fare... fa l'antibiotico, ma il professor Battaglia avrà capito. Professor Battaglia, lei ci ha detto Romeo e Giulietta al balconcino si affacciano, sono uniti nella buona e nella cattiva sorte, ma a volte anche questa coppia che lavora così sodo e tende a non lamentarsi mai può, come tutte le coppie, avere qualche problema. Che cosa è successo ai reni della moglie di Luigi? È successo quello che dicevamo poco fa. Noi siamo abituati a pensare ai reni soltanto all'aspetto dell'urina. Quella che è successo alla moglie del nostro ascoltatore è che quando loro lavorano l'urina, il loro metodo quando devono espellere quest'urina si è alterato. Noi non riusciamo a fare quello che la natura ha fatto, a ricostruire le valvole che la natura ha fatto, e così quando le ricostruiamo soltanto in modo artigianale, e quindi non sono più a contenimento, e quindi l'urina passa, però anche torna indietro, e quindi tornando indietro porta quelle sostanze di nuovo, che sono sostanze non perfettamente sterili, di nuovo nel rene, portando l'infezione. Questa infezione si propaga a tutto l'albero, compresa la vescica e alle cistiti della moglie del nostro ascoltatore. Allora, professor Battaglia, il punto debole, fragile dei reni è che tendono a non dare segno di sé, a non lamentarsi se non quanto proprio non ce la fanno più, e allora presentano il conto che in alcuni casi può essere molto alto. Che cosa vogliamo fare oggi in questa puntata in cui mettiamo i nostri riflettori sulle coppie che lavorano, e i reni sono un po' i nostri testimonial, no? Sulla parte cuore. Allora cerchiamo di individuare quelli che sono i segnali che ci raccontano che qualcosa nell'armonia di coppia sta vacillando. Andiamo a sentire la nostra scheda che ci aiuta a cogliere i segnali importanti. Urini di frequente? Tanto che di notte spesso devi alzarti per andare in bagno? Hai bruciore durante la menzione? Le tue urine sono scure, tendenti al rosso? Hai l'impressione di avere le palpebre un po' più gonfie? O il problema lo noti a livello del viso o delle caviglie? Come va la tua pressione? L'ultima volta che l'hai misurata, era un po' altina? Professor Battaglia, vedevo che Deborah era un po' stupita da questa da questa scheda, perché mi diceva, ma possibile, tutte le persone che si alzano per fare la pipì durante la notte possono avere problemi renali? O ancora, Deborah, il gonfiore, certo, ti ha preoccupato? Esatto, il gonfiore delle caviglie ad esempio, ma qualche volta anche, professor Battaglia, un dolore alla schiena, no? Magari qualcuno pensa che sia riconducibile, attribuibile proprio a qualche problema renale, invece magari possiamo avere un disturbo di tutt'altro tipo, ma insomma, come facciamo anche sulla base di questi segnali a capire che non sono i reni responsabili di questi problemi? La gran parte dei nostri dolori e mal di schiena noi attribuiamo a questi poveretti, a Romeo e Giulietta, che al 90% non c'entrano mai. Loro lavorano così silenziosamente, si aiutano a vicenda, che difficilmente danno segno che loro non lavorano bene o che hanno qualche problema. Sono una coppia perfetta, dicevamo. Generalmente quando c'è questo dolore nella zona in cui attribuiamo dove sono i reni, sì, di solito è la nostra colonna che più frequentemente di altri dà il dolore, perché quando si ha la colica è un dolore che non si dimentica mai. Dico sempre ai miei pazienti che le donne lo ricordano perché sono dolori più forti di quelli di quando hanno partorito. Sì, infatti lo dicono anche gli uomini che non partoriscono e quindi non sanno il dolore del parto. Ma professor Battaglia, quindi noi diciamo ai nostri ascoltatori, prima di dare la parola a Deborah, di ripensare alla nostra scheda, se urinate spesso la notte, se avete del gonfiore, se il colore dell'urina cambia. 800 24 00 24, perché prevenire le malattie renali è possibile, dobbiamo farlo. E intanto dottor Falasca, avvocato Falasca, adesso deve avere qualche minuto di pazienza perché fra un po' dobbiamo raccontare i mercati, ma intanto le anticipo una mail di un'ascoltatrice che fa il suo commento appunto sull'istituto dell'apprendistato, poi magari lo commentiamo insieme. Si parla di apprendistato, dice Cristina, ma come sempre una regolamentazione non esiste, forse nel suo vissuto. In fabbrica ci sono magari giovani entrati a lavorare dopo i 3 anni di superiori e magari lavorano già da 5-6 anni e comunque sono ancora in contratto di apprendistato e magari sanno far girare le macchine e sono capomacchina. Era come il vecchio contratto di formazione lavoro che andava avanti all'infinito, e questo appunto è quello che dicevamo un po' prima, quando le aziende sono un po' anche costrette a mantenere all'infinito un contratto di questo tipo per proprie esigenze e per difficoltà, le difficoltà appunto nelle quali viviamo in questo momento. Ci fermiamo. Nicoletta, avevi un altro segnale? Sì, volevo leggere il messaggio di Laura. Mi dispiace ma non sono d'accordo, ci scrive: nonostante l'impegno, la voglia, ore e ore di straordinari non retribuiti, contratti di stage apprendistati, tutti mi hanno liquidato con: Laura, sei brava ma non posso riconfermarti perché mi costeresti troppo. Per riuscire a lavorare ho fatto molti lavori e con quale fatica si vede il futuro, ma grazie a Cuore Denari sono molto positiva. Allora ottimo, salutiamo Laura. Allora, forza. Da queste testimonianze riprendiamo subito dopo l'aggiornamento dei mercati finanziari. Cuore e denari. Never have I been so burned before. Sempre in diretta Cuore Denari, ci siamo voluti gustare questa colonna sonora che oggi abbiamo scelto per la nostra trasmissione. Quelle che avete ascoltato erano Giorgia e Alicia Keys. Stiamo parlando di duetti e di coppie che lavorano sodo, la coppia dei Reni, grandi lavoratori, e le coppie di colleghi sul lavoro, o di datore di lavoro dipendente, o di compagni di pausa a caffè, come siamo noi, Nicoletta, spesso e volentieri. E oggi vi abbiamo chiesto di catturare l'atmosfera, la complicità che manifesta, che nasce tra coppie di colleghi. Abbiamo però allargato anche, non è necessariamente un collega con cui dobbiamo lavorare, ma è anche magari il collega con cui ci vediamo per la pausa caffè. Deborah ha allargato ancora di più le maglie inserendo amici quattro zampe, colleghi di vita, colleghi di cuore e di denari. Mandateci le vostre foto via Facebook e noi sceglieremo 6 delle foto per abbinarle a 6 biglietti per andare a vedere la mostra di Andy Warhol, che andremo a vedere anche io e te, certo, in coppia, essendo una coppia naturalmente, con foto. Con foto, e poi la metteremo a disposizione dei nostri ascoltatori e faremo un duetto. Nel frattempo c'è l'avvocato Falasca che risponde alle vostre domande. Parlavamo dell'istituto dell'apprendistato, che è quello di permettere di insegnare un mestiere ad un giovane che entra nel mercato del lavoro, ma naturalmente lo fa grazie all'ausilio di un tutor che le aziende scelgono. Nicoletta, volevi? Sì, io volevo chiedere all'avvocato Falasca, che è in linea con noi, che è essenziale, penso, che con le persone con cui lavoriamo è essenziale andare d'accordo, ma è anche fondamentale che sia tutto chiaro e trasparente dal punto di vista contrattuale, così, avvocato? Esatto, esatto. Sicuramente le ipotesi peggiori sono quelle in cui ci sono cattivi contratti. Prima citavo i lavori a progetto, le false partite IVA, oppure gli stage non usati regolarmente e tante altre ipotesi. In quelle situazioni il rapporto di lavoro nasce con una dose altissima di nervosismo. Quando invece c'è un contratto scritto bene, chiaro e regolare, sicuramente, lo dico nella mia esperienza concreta, i rapporti lavorativi funzionano molto meglio, certo. Si gestiscono meglio e tutto va di conseguenza. Purtroppo devo dire la verità che il tema del nervosismo è un tema di questi anni, di conflittualità anche nell'ambiente di lavoro. Esatto, la crisi sta provocando un indotto che non è censibile dalle statistiche, ma le aziende oggi sono dei posti estremamente nervosi, i luoghi di lavoro, perché c'è tensione, c'è la pressione di non farcela, ci sono tanti fattori, quindi noto un po' un peggioramento della qualità del lavoro. al di là di chi ha il problema di non entrare, di chi perde il lavoro, anche chi oggi lavora sì, molto peggio di qualche anno fa. Sotto stress, certo. Sotto stress, si chiede, poi spesso ci sono riduzioni di personale oppure si blocca l'ingresso di giovani, ma il lavoro aumenta e quindi le stesse persone devono fare più lavoro. Insomma, è un indotto della crisi, non so se avete mai riflettuto, ma è abbastanza. Ma la ringraziamo pesante per averci permesso appunto di fare una riflessione su questi argomenti. Professor Battaglia, anche i reni in alcune situazioni fanno più fatica. L'avvocato Falasca diceva che è un periodo in cui la crisi produce del nervosismo all'interno delle aziende e si lavora male. Ci sono anche dei fattori di rischio che fanno lavorare male i nostri reni? Per esempio, loro non risentono degli straordinari come nell'aspetto lavorativo, lavorano anche in straordinario quando noi li sovraccarichiamo di sale. Per esempio le nostre diete, i nostri fast food sono ricchi di sale e loro devono fare lo straordinario per mantenere il nostro equilibrio. E sono sempre in due, vero? Sono sempre in due e lavorano mutuamente. Se qualcuno ha qualche problema, l'altro vicaria, proprio si dice vicaria perché lavora per l'altro. Aumenta la produttività di entrambi. Aumenta la produttività, sì, sì. Senza presentare il conto perché sta lavorando di più. Proprio una coppia perfetta, sono un esempio di come bisognerebbe stare in armonia. Allora, a proposito di coppie più o meno perfette, sentiamo quelle che sono le testimonianze dei nostri ascoltatori, Nicoletta. Dai, dal punto andiamo di vista del cuore dei denari, e cominciamo con Erminio dalla provincia di Treviso. Erminio, buongiorno. Sì. Buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ospiti. Cosa ci racconta di bello? Allora, volevo raccontarvi la mia esperienza in breve. Praticamente io ho conosciuto l'attuale mia moglie che aveva 16 anni, io 18, e il mio primo posto di lavoro, una fabbrica di scarpe, sto parlando dalla provincia di Treviso. Quindi, sì, è il posto giusto. Siamo stati a lavorare assieme un bel po' di anni, poi il destino ha fatto che ci siamo sposati, abbiamo avuto un primo figlio, io avevo 23 anni, lei 21, il primo figlio purtroppo è nato con problemi, allora ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto perché non fondare un lavoro che sì, tutto nostro, che dopo ci dia la possibilità di gestirvi anche il menage familiare, certo. Sì. Ah, ecco, anche per l'assunzione del proprio figlio. Pensa come hanno pensato a lungo termine i signori di Treviso. Avrà problemi, avrà certamente, a sentire i medici, avrà una vita piena di problemi. E quindi voi vi siete. Abbiamo fondato un'azienda che tuttora abbiamo, adesso c'è il cambio generazionale. Ah, ecco, vedi. Una staffetta figlio, interna. Il secondo, il primo lavora tuttora con noi, fa 3 ore al giorno. Sì. Insomma, è la famiglia, la coppia e la famiglia tutelano e proteggono e producono. La piccola azienda familiare è diventata anche lo strumento di tutela per questo figlio, appunto, con difficoltà. Erminio, grazie per la sua testimonianza. Per lei? Sì, bravo, bravo Erminio. Perché è positivo, insomma. E sentiamo anche Teresa che ci chiama da Roma, 800 24 00 24. Buongiorno Teresa. Buongiorno a voi, piacere di ascoltarvi sempre, tutti i giorni. Grazie. Piacere di conoscerla Teresa, grazie. Grazie. Senta, io volevo chiedere al professore Battaglia, so già tutto sui reni perché mi documento, sono anche una birbante perché non riesco a bere. Io quando vedo un dito di acqua nel bicchiere vado in apnea. Ma scusi, ma Teresa non beve, ma neanche acqua va bene, ma non beve neanche tè, tisane? No, io non bevo niente. Però mangia. Come diciamo quell'animale che non mi viene in mente adesso, neanche io faccio a me la provvista a luglio agosto di acqua. Come il cammello, penso. Come il cammello. Lo so. Magari io sbaglio. A luglio e ad agosto faccio la provvista e basta. E poi tutto l'anno io non riesco a bere. Abbiamo capito, Teresa. Lasciamo il tempo al professor Battaglia di riflettere. Questo caso. Professor Battaglia, è grave? È grave con quello che dicevamo poco fa all'inizio della trasmissione. Noi l'80% siamo fatti di acqua. Se non rigeneriamo questo humus, questo territorio così ampio del nostro corpo, rischiamo di inaridirlo, è come un terreno che però, non dà più frutti. Ecco, ad esempio Deborah adesso sta bevendo. Mi sono subito spaventata con la bottiglietta dell'acqua che abbiamo sempre qui accanto a noi, ci idratiamo in due nanosecondi. Professor Battaglia, però ci sono tante persone che bevono poco o non avvertono in modo chiaro il sintomo della sete, perché d'inverno fa freddo e quindi diamo un consiglio pratico a queste persone in modo che attraverso l'alimentazione o attraverso l'assunzione di liquidi riescano un po' a agevolare la vita di questi, di questa coppia. Ma quando ci alziamo al mattino, guardiamoci nello specchio e diciamo mi voglio bene, ci vogliamo bene, e quindi per volerci bene, per tradurre nella pratica questo volerci bene, prendiamo tre bei bicchieroni di acqua a digiuno e li ingeriamo. Questo è uno dei presupposti per la nostra salute, non solo dei nostri reni, ma anche del nostro cuore, perché c'è un link particolare tra il cuore e il reni. Ecco, ricordatevi quindi, poi minestre, zuppe, l'acqua sì. di cottura in cui lessate le verdure. L'acqua arriva anche attraverso altre modalità. Anche fonti. Avvocato ma Falasca. A proposito, verdure sì. sono ricche di acqua. Cioè, ecco. Se noi mettiamo nel frigorifero delle verdure crude, già belle lavate, di tanto in tanto mettiamo la mano dentro il nostro frigorifero, ne prendiamo un pezzo e lo cominciamo a mangiare, ecco, già abbiamo ingerito un bel quantitativo di acqua. No, volevo solo chiedere all'avvocato Falasca se si idrata a sufficienza nel corso della giornata, se beve a sufficienza, perché abbiamo bisogno della sua consulenza per altri casi che gli presenteremo tra poco. Avvocato, siamo tranquilli con lei? Potete stare tranquilli, allora, mi sto idratando. Bravo avvocato, si faccia una bevutina, intanto noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, a tra poco. Cuore e denari. L'ho appena saputo, che cos'hai? Calcoli renali. Vede, di solito noi cerchiamo di frantumarli con delle onde sonore, ma i suoi purtroppo sono troppo vicini alla vescica. Quindi ora o aspettiamo che escano da soli o risaliamo lungo l'uretra e poi... Che cosa? No. Qui non risalirà mai niente, chiaro? Risalire non si può. E poi che cos'è l'uretra? Oh mio Dio. Ce l'hai fatta, lo sai. Vuole vederli? Come sono piccoli. Piccoli, ma che dolore, professor Battaglia. La colica renale è molto dolorosa, l'aveva anticipato, è un dolore che viene paragonato al parto, lo dicono anche gli uomini che di parto non hanno esperienza. Comunque, questo è una dimostrazione, professore, che nella coppia il dolore dell'uno e il dolore dell'altro. Leggiamola così, ma torniamo alla nostra colica, professor Battaglia, provocata in fondo da queste pietruzze che si formano là dove non dovrebbero formarsi. In soldoni, questo è il problema. Certo, cioè abbiamo detto che noi siamo ricchi di acqua, l'urina è un liquido che c'ha dentro anche dei sali. Se questi sali, per delle perturbazioni che ci sono dentro i nostri reni, che cominciano a non funzionare perfettamente, si comblobblano in una massa, diventano una massa, sì. possono formare queste pietruzze che poi danno il dolore non perché si formano dentro i reni, ma perché i reni cercano di mandarli certo. fuori da se stessi. Lungo perché il se stessero lì dove si sono formate... Non danno segno di sé. Invece si muovono, vedi? Quando si muovono. Ma, professor Battaglia, si possono prevenire? Perché Nicoletta, che subdolamente sponsorizza i frutti della sua terra d'origine, mezza siciliana, anche se lei dice di essere torinese, dice che il limone... No, anzi, io sono molto orgogliosa, carbone. Ci mancherebbe. Dice che il limone è miracoloso, ma è come dire, è veritiera questa sua teoria o no? È uno dei frutti più belli che ci ha dato la natura, ricco di tantissime cose, ma a proposito delle pietruzze, il limone è ricco di acido citrico. L'acido citrico che viene concentrato, che arriva nei nostri reni, fa sì che questi sali non formano mai le pietruzze, sembrano sempre sciolti e rimangono sempre sciolti nell'urina. Quindi, professor Battaglia, me lo confermi, una sorta di dieta del limone. Il limone è un frutto che aiuta a prevenire i calcoli renali. Quanto bisogna assumerne e chi magari invece non può ricorrere al limone? Perché ci saranno anche delle controindicazioni nell'utilizzo del succo di limone. Professor Battaglia. Ma voglio cominciare dall'ultimo pezzo della domanda, sfatare il limone anche per chi ha acidità di stomaco non fa male, perché questo è il più grasso luogo comune che si fa, dice soffro di acidità quindi non prendo limone, va sfatato, sì. L'acido citrico anzi aiuta la motilità gastrica che è contenuto nel limone, basta per chi, per prevenire basta spremere un bel limone la mattina nei nostri 3 bicchieri di acqua che dovremmo prendere a digiuno, se poi abbiamo sofferto di coliche renali perché queste pietruzze si sono già formate in precedenza, lì bisogna avere durante la giornata almeno il succo di 3 limoni per avere una quantità di acido citrico sufficiente a non fare soprasaturare le nostre urine. Allora, torniamo adesso ad un altro, anzi, come dire, portiamo il concetto del sassolino anche all'interno del rapporto di lavoro che viene disciplinato dal contratto di apprendistato. Ritorniamo dal nostro avvocato Falasca, perché il tema è, ci può essere anche un sassolino che disturba questo rapporto di lavoro. Allora, mi chiedo, a quali condizioni un'azienda può interrompere un contratto di apprendistato prima del previsto? E poi andremo anche alle richieste dei nostri ascoltatori che ci raccontano un po' come l'hanno vissuto questo rapporto di lavoro all'interno di un'azienda e come hanno vissuto anche la relazione con il tutor, che è quella figura che il contratto di apprendistato prevede che deve insegnare appunto al nuovo che entra in azienda. Avvocato Falasca. Ma allora, l'interruzione del rapporto può avvenire secondo le regole generali, cioè ci deve essere una giusta causa, un giustificato motivo. Quello che è di strano nell'apprendistato è che alla fine del periodo di formazione, quindi i 3 anni, si apre una finestra di solito di 30 giorni. Durante questa finestra il datore di lavoro può interrompere senza motivo, cioè può dire ok, finita la formazione, presa la qualifica, non ho più bisogno della persona e non deve in questo caso avere un motivo. Allora guardi, questa la interrompo subito, siccome ci sono molti ascoltatori che dicono quando il contratto termina e il datore di lavoro non rinnova, non è possibile perseguire la strada dell'azione legale per riaprire questo rapporto di lavoro, perché il contratto lo dice chiaramente sin dall'inizio. Esatto. Lo sacco dove si può seguire l'azione legale qui. Se durante il rapporto precedente il datore di lavoro ha fatto il furbetto e non ha fatto la formazione che si era impegnata ad erogare, allora in quel caso si invalida tutto il contratto. Però diciamo è un'ipotesi estrema. Temo frequente, ma difficile da dimostrare, perché insomma ci deve essere. Cosa ci deve essere? Magari allora il piano all'inizio, quando si firma il contratto, c'è questo piano in cui si dice tu dovrai imparare A, B, C e D con 120 ore all'anno di formazione fatta online piuttosto che in aula e quant'altro. Il nome del tutor è fatto sul contratto? Il nome del tutor, e poi fatto questo ci dovrà essere un registro dove è provato lo svolgimento della formazione, quindi oggi sono stato 4 ore in aula, si firma il registro, oggi ho fatto 3 ore di formazione in affiancamento, si firma, è chiaro che diciamo che se poi è tutta una finta è la... Certo, come sempre carta canta, avvocato Falasca. Prima dicevo una cosa, no? Che è importante, in Germania funziona, oggi sono improntato molto al pessimismo, perché è gestito dai tedeschi. E spesso diciamo cambiamo le regole, le nostre regole sono identiche a quelle della Germania. Lì credo che numerosi ministri del governo abbiano iniziato come apprendisti, ho letto una volta questa statistica, per dire, cioè in Germania l'apprendistato è un contratto di grandissima qualità, in Italia con regole uguali ci arrabattiamo, funziona in maniera un po' diversa, lo usano bene. Ci sono aziende che lo usano benissimo. Esatto, qualcun altro invece non troppo. Le faccio sentire, avvocato Falasca, in 30 secondi quello che ci vuole raccontare Andrea da Verona, poi magari lo commentiamo nella seconda parte del programma. Andrea, telegrafico, grazie. Bada. Buongiorno a tutti, buongiorno avvocato. Niente, volevo chiedere un'informazione. Io ho 28 anni, ho fatto 8 anni di apprendistato, ho la sclerosi multipla e ho il 75% di invalidità. Dopo 8 anni mi hanno lasciato a casa. E volevo sentire lei, visto che dice che la Germania è uguale a noi siamo uguali alla Germania, no? Magari lei, Andrea, per la verità avrebbe diritto ad un altro tipo di contratto che l'azienda le potrebbe fare. Andrea, resti perché ne parliamo, certo. L'avvocato rimane con noi insieme al professor Battaglia. Tutte le vostre telefonate dopo il GR, spazio a voi. E anche tutte le vostre foto sulle vostre coppie. Continuate. A tra poco. Cuore e denari. Parliamo di coppie e di coppie che lavorano oggi a Cuore e Denari. Ancora buongiorno da Deborah Rosciani. e da Nicoletta Carbone. Eccomi qua. Ecco, abbiamo visto i casi in cui l'esperienza insegna, ma ci sono anche casi in cui chi ha maturato esperienza deve farsi da parte e lasciare un po' spazio alle nuove generazioni. Ne parleremo tra poco. Siamo pronti, andiamo. Salva Danaio. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want. Sì, noi vorremmo ascoltarla tutta, Father and Son, ma in realtà questa canzone ci serve ad introdurre il tema che appunto commenteremo tra poco, perché Avvocato Falasca, il nostro giuslavorista a disposizione oggi dei nostri ascoltatori per commentare i temi dell'apprendistato, ma anche quello che affronteremo adesso, un'idea che è stata introdotta recentemente dal governo per incentivare l'assunzione dei giovani, poi recentemente ma in maniera relativa, agevolare nelle aziende una staffetta generazionale con l'aiuto di incentivi pubblici. Prima di dirci se funziona o meno e quante regioni l'hanno applicata, ci deve rispondere gentilmente alla domanda, alla questione sollevata dall'ascoltatore di Verona che abbiamo sentito prima. Andrea, 28 anni, 8 anni di apprendistato consecutivi, ma una invalidità al 75% formalmente riconosciuta. Forse deve cercare un altro tipo di contratto il nostro amico. Ma sa, il caso è come, diciamo, è come se ci venisse chiesto cosa fare con chi passa con il rosso. Cioè, 8 anni di apprendistato non si possono fare. Quindi se l'azienda ha fatto 8 anni di apprendistato, ha violato le regole. Quindi paradossalmente la risposta è facile. Poi ci sono tutta una serie di contratti pensati per chi ha, diciamo, dei gradi di invalidità e quindi finalizzati a fare il cosiddetto collocamento mirato, ma questo sì, è un altro discorso. Vorrei tornare al punto precedente: se veramente ha fatto 8 anni di apprendistato per le stesse mansioni, il contratto era irregolare, quindi potrà certo farsi valere, perché vede il livello, poi a volte il livello delle violazioni che sentiamo è elementare. L'esempio quello che fate è passare col rosso, cioè non c'è neanche raffinatezza. Ma avvocato, io posso fare, non più, ma io potrei fare un apprendistato, finire quell'apprendistato e farne un altro ancora in aziende diverse naturalmente. Allora sì, e addirittura in passato il Ministero del Lavoro aveva detto che anche sulla stessa azienda, cambiando le mansioni, ma sono interpretazioni molto estreme che di fronte a un giudice cadrebbero come, si scioglierebbero come neve al sole. E diciamo che da azienda ad azienda lo posso fare con qualifiche diverse, cioè se io ho imparato a fare il web designer, un'altra azienda non mi può prendere come apprendista web designer. Se mi prende come apprendista avvocato, diciamo, allora sì. Ma senta, apprendista avvocato, mi ha fatto venire in mente, avvocato Falasca, ci manda anche lei sul nostro profilo Facebook una foto con lei e il suo apprendista avvocato, una foto di coppia, e così lo chiediamo anche al professor Battaglia, ce le mandate? No, ma noi vi diamo i biglietti per andare a vedere Andy Warhol, quindi vale la pena fare questo piccolo sacrificio per noi. Avvocato. Vabbè, ma posso coprire il mio volto almeno? ma non dica così. È giovanissimo l'avvocato professor Palazzo. Battaglia, ce le mandi anche lei? Va bene, senza. E se voi non con volete... il sole che splende di 30 gradi stamattina. Magnifico, io sono verde d'invidia, ecco. Ma se voi non volete metterci la faccia, mandateci su Facebook la coppia a cui voi vi ispirate, una coppia che vi piace in modo particolare, anche una coppia di attori, insomma scatenatevi, mandateci sul nostro profilo Facebook la coppia che lavora. Allora, qualche ascoltatore, ne andiamo. Prendiamo spazio magari, alle domande, spazio dai. Alle domande, direi spazio ai reni a questo punto, poi torniamo, avvocato Falasca, alla staffetta generazionale, perché ci sono delle domande anche su questo, ma direi di sentire Enrico dalla provincia di Udine che aspetta dall'altra parte del programma, quindi è da un po' che in linea. Enrico, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno al professor Battaglia. Io volevo fare salutiamo anche l'avvocato Falasca, se no perché non ci manda neanche più la foto, non ha una domanda per lui, quindi non lo saluta. Dai, assolutamente Enrico, non voglio mancare. Stiamo scherzando, no. Perché noi cerchiamo di alleggerire le nostre trasmissioni, Enrico, e speriamo che voi lo apprezziate. Ecco qua. Assolutamente. Dicevo, io vorrei fare due considerazioni veloci e una domanda. Allora, la considerazione iniziale è che sono talmente d'accordo col professor Battaglia sul fatto che i reni si vogliono molto bene, perché quando uno muore, l'altro riesce a compensare il lavoro. Sì. La seconda considerazione è che io, avendo dovuto togliere un rene 5 anni fa, dalla vostra trasmissione ho capito il perché viene comunque sempre chiesto tenere sotto controllo la pressione, sì, che deve essere sostanzialmente bassa, perché i reni sono direttamente responsabili della pressione arteriosa e di conseguenza potrebbero causare alcuni problemi. Certo, infatti si parla di danno d'organo. Esatto, la mia domanda è questa. Io appunto, avendo tolto il rene e mi trovo altre patologie in corso, fra cui, sì, il diabete, sostanzialmente ho delle formazioni di calcoli nell'unico rene che mi è rimasto. Certo. Nonostante io tenga sotto controllo la situazione, escluda degli alimenti per non incrementare il valore degli ossalati, sì, che nel mio caso sono l'82%, sì, della formazione, Enrico, del calcolo, venga la domanda. Infatti la mia domanda era proprio questa. Perché continuano a formarsi calcoli nonostante io tenga... Con tutte le attenzioni che lei ha, sia nell'alimentazione e soprattutto nei controlli. Professor Battaglia, un'indicazione rapida per Enrico. Ma la gran parte dei calcoli si formano per un aspetto genetico, il malfunzionamento di alcuni presupposti che vengono trasferiti dai nostri progenitori. Quindi se con tutte le precauzioni si formano questi calcoli è perché c'è un aspetto genetico, ma questa perturbazione genetica ha un aspetto funzionale, bisogna andare a cercare un bravo urologo, il nostro amico glielo troverà senz'altro, un bravo nefrologo glielo troverà senz'altro, il modo di ovviare a questo deficit. Perché ci sono degli esami, professor Battaglia, che riescono a capire esattamente se i calcoli sono il risultato di uno stile di vita, mi lasci passare il termine, scorretto, se invece si è predisposti geneticamente se alla formazione di queste sassoline. La perturbazione genetica, che io già adotto come mio termine del giorno perché mi è piaciuto moltissimo. Professor Battaglia, abbiamo capito bene che questo è il messaggio, sì, che trasferiamo ad Enrico? È perfetto. Ci sono perfetto degli esami che permettono di vederci chiaro, un po' come i contratti di cui parlava, esatto, l'avvocato Falassa. Che bisogna leggere con attenzione. Esatto, ma poi un esame che è banale. Noi abbiamo detto più volte durante questo periodo che siamo stati insieme, delle urine, basta l'esame alle urine, fatte ogni anno, ci dicono quasi tutto dei nostri reni. Ottimo, allora ritorniamo alla... Avvocato Falasca, segni anche questo, oltre a bere, l'esame delle urine. Continuando e la foto. Esatto. Guardate, ho un foglio, sto segnando tutto, praticamente ho finito la trasmissione con pieno di compiti. No, guardi, allora tornando tra l'altro alle similitudini con le quali ci ha dato un gancio anche il professor Battaglia poco fa, anzi per la verità l'ha fatta questa similitudine l'ascoltatore che ci ha testimoniato il suo caso e diceva quando un rene non lavora più l'altro fa per lui. Vicaria, sì. Esatto, è un po' qua è il concetto della staffetta generazionale, perché qua c'è in un'azienda una persona che sta andando in pensione ma non ha ancora raggiunto tutti i requisiti, però l'azienda gli dice sai che c'è, ti metto a lavorare a mezzo servizio, però questo mezzo servizio tu lo dedichi ad addestrare un'altra persona. Ho sintetizzato in maniera efficace il concetto della staffetta generazionale, avvocato Falasca? Esatto, il concetto è molto questo, diciamo che è un po' rimasto ancora nel mondo iperuranio, come diceva Platone, cioè c'è il concetto ma non c'è lo strumento, sì, cioè c'è una normativa che dice che si possono provare a livello regionale delle sperimentazioni e così via, ma in sostanza ad oggi non credo che più di 100 persone in tutta Italia abbiano utilizzato questo strumento, ci vogliono corpose risorse, che non ci sono. Perché praticamente il lavoratore che viene messo a part time, quello anziano, diciamo così, l'azienda non gli versa più i contributi, ma tutti i contributi li versa praticamente il pubblico. Lo Stato, il pubblico, quindi... nelle varie declinazioni locali e territoriali. Immaginate voi di questi tempi, considerate che l'INPS si sta andando a riprendere gli incentivi sulla piccola mobilità che aveva dato l'anno scorso, quindi capite poi anche qual è il rapporto di fiducia con i cittadini, quanto poco uno ci crede a questi strumenti, no? E quindi l'idea è buona ma è totalmente ferma. In Lombardia c'è una sperimentazione interessante con siamo ancora a livello di sperimentazione, quindi esatto, a livello di statistiche generali è pari allo zero, eppure l'idea è buona, certo. Noi le idee buone ce le abbiamo, certo. Devo dire la verità, con un'età di pensionamento a 67 anni è un po' ha tagliato le gambe a questa idea. C'è una cosa che non è direttamente staffetta, ma funziona un po' meglio, che è, diciamo, il cosiddetto prevenzionamento della legge Fornero, cioè che a 4 anni dalla fine del lavoro la persona esce dall'azienda, ma viene sostituita. Gli paga quella che sarebbe la pensione, che è meno dello stipendio, quindi l'azienda comunque abbatte il costo. Diciamo che poi non è previsto l'obbligo di prendere il giovane, ma l'idea sarebbe quella poi di creare lo spazio per i giovani. Con gli strumenti riforma delle pensioni, la soglia di gioventù è inquietante, ormai si parla sotto a 40 anni si parla di giovani. Lei è praticamente un bambino, avvocato Falasca, io sono alle soglie dell'adolescenza. Solo un messaggio, leggo, poi ritorniamo ai Reni. Come trovare un contratto di apprendistato, tornando al tema precedente, perché c'è questa ascoltatrice laureata che dice: come trovare un lavoro in generale, ho fatto domanda anche per posizioni di basso profilo pur essendo laureata, un consiglio? E qua dovremmo aprire veramente le porte e fare una trasmissione. Noi dovremmo fare proprio un servizio, Deborina. Sì, ci proveremo prossimamente, riapriremo come trovare lavoro, come riciclarsi, come trovare magari io ho delle competenze che non vanno bene su questo territorio, leggere gli annunci e noi potremmo fare anche la versione cuore, come leggere gli esami del sangue, i segnali, i sintomi. Ottimo. Insomma, lavoreremo in questa direzione. Ci metteremo al vostro totale servizio. Allora, Udine, Varese o Savona? Professor Battaglia, dove vuole andare? Scelga. Udine, Varese o Savona? Mi dica Varese. Varese. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'opportunità che mi date. Grazie a lei, Anna Maria. Sì, mi dica. Volevo chiedere, io ho una figlia che si è diplomata l'anno scorso e ha un contratto di apprendistato con un'azienda a Milano, soltanto che contemporaneamente sta studiando per un corso di specializzazione e non riesce a portare avanti tutte e due le cose, per cui vorrebbe recedere dal contratto di apprendistato. Sì, sì. Voglio sapere come si deve comportare, se deve dare delle dimissioni, se le possono chiedere. Quanto tempo prima deve chiederlo? Brava, bella domanda Anna Maria. Avvocato Falasca, è sua. Sì, è molto semplice, deve fare una lettera di dimissioni in cui scrive il concetto di scrivere io mi dimetto, deve rispettare un termine di preavviso, ma può andarsene anche subito, in quel caso però le scalano, diciamo, il valore del preavviso, quindi consiglio di farlo prima. Adesso dipende dalla qualifica, di solito va da 15 giorni a 2 mesi. Benissimo, quindi insomma Anna Maria non deve avere un documento formale in cui si spiegano le nuove necessità, chiaramente, e ci perde eventualmente. Se c'è l'effetto immediato, certo. Allora, io tornerei ai nostri ascoltatori che ci stanno contattando per avere notizie sulla prevenzione delle malattie renali. Molti, professor Battaglia, puntano sull'alimentazione, sul discorso acqua, ma anche sulla quantità di proteine che si assumono con la dieta, e troppe proteine fanno male alla funzione renale. Professor Battaglia. No, troppe proteine non fanno male alla funzione renale se i reni funzionano bene. La nostra conduttrice Deborah diceva all'inizio della trasmissione gli occhi gonfi. Lì il discorso degli occhi gonfi, delle palpebre gonfie, è dovuto proprio, per dirla come geneticamente, stavolta la diciamo per il nostro sangue, quando c'è una perturbazione del rapporto tra proteine e la parte liquida nel nostro sangue, che viene sempre regolata dai nostri reni. Quindi un'altra perturbazione che può essere quella del contenuto di sali che noi introduciamo, che ha come riflesso l'aumento della pressione arteriosa, perché i nostri reni non riescono ad eliminare tutto il sale, resta in circolo e quindi aumenta la pressione arteriosa. Interessante. Andiamo a Maria Luisa che ci chiama dalla provincia di Bologna. Intanto buongiorno Maria Luisa. Pronto? Buongiorno, è in linea con noi a Cuore Denari, benvenuta. Salve. Che ci racconta? Ah, volevo fare una domanda professore. È normale che l'urina abbia diverso colore durante la giornata o deve essere sempre giallastra? O giallina, o paglierina. Professor Battaglia, il che colore... bella domanda. Per a un nefrologo, parlare di pipì e invitarlo a nozze. Professor Battaglia. È bellissima questa domanda, perché... perché l'urina, il colore dell'urina, risente dal contenuto di quanta acqua beviamo. Certo. Se noi beviamo più acqua, i nostri reni lavorano più acqua e quindi l'urina è più chiara. Se noi non beviamo acqua, ci concentriamo, cioè l'urina diventa più concentrata e quindi diventa molto più gialla. Professor Battaglia, lei mi ha toccato un tasto. Quante, ma è vero che per aiutare i reni a depurare, eliminare le tossine, bisogna bere tanta acqua? Almeno 2 litri di acqua al giorno, se si è nelle condizioni ottimali, non si è degli ipertesi, non ci sono controindicazioni per malattie di cuore come sì, la nostra, bisogna bere almeno 2 litri di acqua, ecco, al giorno. Aggiungiamo però che bere acqua non fa dimagrire, come mi suggerisce Ambra con un messaggio anche al 349, la Rusciani, perché un po' di ritenzione sulle cosce la provoca, eh. Professor Battaglia, bisogna vedere il nostro equilibrio ormonico, quanti, perché quando l'acqua si concentra in quelle zone che le nostre conduttrici ci hanno detto, è perché i nostri ormoni non sono perfettamente in equilibrio, e questo ci, e poi soprattutto riteniamo, se assumiamo contemporaneamente molto sale. Quindi molto riduciamo, è un nemico della nostra salute. Professor Battaglia, devo chiederle questo da Elisa da Padova, così con una domanda rispondiamo a tanti nostri ascoltatori. L'acqua del rubinetto, se è molto calcarea, può essere dannosa per i reni? Perché Elisa, come molti altri ascoltatori, bevono l'acqua del sindaco, e allora si chiedono se questa può avere dare problemi ai reni. Io dico di no. Lei? No, l'acqua del sindaco è uguale a tutte le altre. Brava, l'acqua del sindaco ci piace. Allora, sì, chiudiamo ancora, non so, prese con una telefonata, direi di sì, Davide da Savona, che pure deve essere gentilmente telegrafico. Davide, buongiorno, problema ai reni a 16 anni e apprendistato. Metti insieme il tema di cuore e denari questa mattina perfettamente. Ci dica. Sì, buongiorno. A 16 anni, dopo una partita di calcio, ho avuto emature da sport, ovvero sangue nelle urine, e molto frettolosamente mi è stata diagnosticata una sindrome di Alport, che mi avrebbe dovuto portare di lì a pochi anni a avere una insufficienza renale con quello che ne consegue. E per fortuna, questo è il reparto di nefrologia di Savona, per fortuna i miei genitori hanno poi mandato, diciamo, campioni del mio rene un po' per tutta Italia. E grazie al DNA, grazie al collagene, Si è risolto tutto bene. Bene. Sì. Bene. Quindi vuol dire che sì, insomma, la sanità in Italia funziona. E sul resto del tema, Davide? Per essere il tema, a 24 anni dopo l'università, apprendistato, un'esperienza importante a livello formativo, ma con abusi, perché il tutor che doveva seguirmi chiaramente non mi seguiva di notte sulle navi dove andavo. E in che settore ha fatto l'apprendistato, Davide? Nello shipping, nel settore marittimo a Savona. Ho capito. E quindi, insomma, allora un messaggio lanciamo, grazie a Davide, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, ma 5 secondi all'avvocato Falasca per naturalmente incoraggiare le aziende a fare dei contratti regolari, ovviamente, ma anche al lavoratore a come dire, sfruttare appieno questa opportunità che si dà con questo contratto. Ma guardate, lo faccio volentieri, perché lo faccio tutti i giorni. 5 secondi che stiamo chiudendo. Diciamo, applicare la legge è bello, e quando i contratti sono buoni è ancora, dà ancora maggiori soddisfazioni. Quindi ho parafrasato il vecchio "le tasse sono belle" di Padoschio. Eccolo qua. Grazie, allora, grazie all'avvocato, grazie al prof. A domani. A domani, buona giornata. Cuore e denari.